Allora, questa è la relazione del 25 novembre. Allora, per evitare di farmi maltrattare e di dire che, e di essere accusato del fatto che vi presento soltanto le tesi che vanno bene a me e non vi dico quelle che vanno bene agli altri, oggi leggiamo sul tema, e con questo vorrei però, con questa lezione vorrei chiudere la questione della natura umana e poi parlare un po' del linguaggio, ma in altro modo. Comunque, oggi finiamo il tema della natura umana leggendo un pezzo di un libro di un sostenitore della natura umana e non di un avversario della natura umana come sono io. Quindi vi leggerò un breve estratto di un capitolo da un saggio di Diego Marconi. Diego Marconi è uno che sta in questo libro, però questo libro qua penso che lo trovate anche su internet da scaricare, chi fosse interessato, chi non è interessato, non importa perché poi ci avete altra roba da leggere. Allora, in appendice a questa edizione del dibattito tra Chomsky e Foucault del 72, sono stati messi tre brevi appendici, tre brevi saggi di tre diverse persone. Due delle quali, diciamo, cioè una chiaramente sfavorevole al tema della natura umana, uno favorevole e uno in mezzo così così. Quello, diciamo, contrario è Paolo Virno, quello favorevole è Diego Marconi e quello intermedio si chiama Stefano Catucci. Sono tre filosofi italiani. Adesso io non vi leggo Paolo Virno, ma vi leggo Diego Marconi, poi capirete pure perché vi leggo questo pezzo di Diego Marconi, perché è una furberia in realtà che faccio. Che poi vedrete che lui fa un po' di autocritica sulla questione della natura umana e quindi conclude in un modo che ovviamente non può che trovare la mia almeno parziale approvazione. No, però ve lo leggo anche per un'altra ragione, perché in effetti riassume molto bene alcune delle cose a cui vi ho accennato nelle lezioni scorse, per esempio spiega abbastanza bene le posizioni di Foucault, perlomeno le posizioni del Foucault degli anni 60, del 66, spiega cos'è il cognitivismo, spiega in qualche maniera le teorie di Chomsky, critica le ipotesi di relativismo linguistico, quindi va tutto contro quello che dico io, però poi a un certo punto. Comunque è molto utile. Il cognitivismo, vi dico in breve, il cognitivismo o filosofia cognitiva di cui Marconi è uno dei rappresentanti italiani più importanti, è quella, diciamo, quell'approccio alla filosofia o alla filosofia della psicologia, quindi alla psicologia non sperimentale, alla psicologia teorica, che è venuto dopo, diciamo, il comportamentismo. Il comportamentismo è stato negli anni 50 e fino alla metà degli anni 60 la teoria psicologica più in voga, più insomma, diffusa. I rappresentanti principali sono Watson e Skinner, criticata poi da Chomsky sul piano della linguistica e da un sacco di altre persone, eccetera, eccetera. Diciamo, era stato accusato il comportamentismo di essere una psicologia, diciamo, eccessivamente relativista, ma soprattutto eccessivamente positivista da un certo punto di vista. Cioè abbracciava l'ipotesi della mente umana come un insieme di possibilità infinitamente malleabile, eccetera, eccetera. In realtà poi avevano la psicologia comportamentista aveva una serie di altre caratteristiche negative, per cui la mia variante, che non è mia, insomma, ma quella a cui io aderisco di, diciamo, relativismo, non poteva esserci simpatico il comportamentismo. Però da un certo punto di vista il cognitivismo è stata un diciamo, rimedio peggiore del male per me. perché ha introdotto l'idea, diciamo, intanto ha rigorosamente reintrodotto l'idea di natura umana, cioè diciamo, di natura umana nel senso di ha reintrodotto una concezione dell'uomo come, diciamo, come dotato di una serie di capacità descrivibili o addirittura schematizzabili, addirittura riducibili ad algoritmi, diciamo, studiabile, di cui, che sarebbe stato possibile studiare, di cui sarebbe stato possibile fare un elenco più o meno, diciamo, completo ed esaustivo. Ha reintrodotto la nozione di mente che il comportamentismo aveva cercato di mettere da parte, e anche lì ci sono dei pro e sono dei contro, non è così semplice dire. Ma soprattutto, perché viene fuori diciamo alla fine degli anni 60, primi anni 70, questa ipotesi detta cognitivismo, perché assume come modello della mente umana, cioè perché nasce praticamente dagli studi di intelligenza artificiale, e quindi assume come modello della mente umana una macchina che funziona per algoritmi come il computer. Quindi diciamo, adesso detto molto a spanne, in modo molto riduttivo, però insomma, per un cognitivista, un cognitivista non sarebbe mai d'accordo con quello che io vi dico adesso, ma insomma, per il cognitivista, dico io, la mente umana, il cervello umano è una specie di supercomputer. In realtà il cognitivista si limita a dire che è molto cauto, è molto prudente, perché sono tutti finanziari, però la gente non ha teoria. Quindi loro vi diranno, entro certi limiti e da certi punti di vista e sotto certi aspetti e con 10.000 cautele, il computer può funzionare da modello della mente umana. Io che sono un ragazzo di strada e non ho voglia di fare tante sofisticherie, dico che asserire questo equivale a di fatto, se vuol dire che la mente è una serie di snobbio, perché sennò è inutile che tu mi dica che il computer è un possibile modello per la mente. Se è un modello per la mente vuol dire che ci saranno delle cose in più nella mente o nel, diciamo, cervello che non sono descrivibili in termini, diciamo, in termini computeristici o computerizzabili, ma questo qualcosa in più è ininfluente ai fini della conoscenza scientifica della mente, e quindi tanto vale dire che la mente è come un computer, insomma, di fatto, per quello che ci interessa a noi o per quello che siamo in grado di conoscere, quindi dire che la mente è un buon modello, poi dopo modello vuol dire approssimazione, non vuol dire che è esattamente quello, però da un punto di vista della conoscenza, cioè di quello che io posso conoscere di qualche cosa, vuol dire che il cervello è un po'. Detto questo, quindi per capire adesso le pagine che vi leggo, chi le ha scritte, cioè le ha scritte uno, è una persona che io stimo, non penso sia uno stronzo, uno so, cretino, cioè, anzi al contrario, uno molto bravo, però diciamo, sostiene posizioni che non sono le mie, però ve lo leggo lo stesso. Allora, nel 1966, 66, Michel Foucault sigillava uno dei libri di filosofia più noti e più influenti degli ultimi decenni, Le parole e le cose, Les mots et les choses. Con la celebre frase destinata a diventare uno slogan, dice lui, l'uomo è un'invenzione recente, tra virgolette, l'uomo è un'invenzione recente. Naturalmente Foucault non ignorava che la nostra specie, Homo sapiens sapiens, è vecchia di qualche decina di migliaia di anni, diciamo circa 250.000 anni, forse meno, poco più. Quello che voleva dire Foucault era che l'uomo, come oggetto di studio delle scienze umane, era nato da poco più di 150 anni. L'uomo che non soltanto, virgolette, vive, parla e produce, tutte cose che gli uomini fanno da ben più di un secolo e mezzo, ma si rappresenta la sua vita, il suo lavoro e il suo linguaggio. Questi tre sostantivi non sono scelti a caso, perché le parole e le cose si concentra esattamente sull'uomo come entità biologica, non nel senso di Homo sapiens, ma lo studio dell'uomo come della biologia umana, quindi racconta la nascita, delle scienze biologiche, come nascono più o meno nell'Ottocento, da una serie di campi di studio precedenti che soltanto con grande approssimazione potremmo definire biologia o scienze, naturali. Lo stesso lavoro fa per il linguaggio, vive, parla per il linguaggio, quindi nell'Ottocento nasce una linguistica che poi si consoliderà verso la fine dell'Ottocento con le teorie di Saussure, e produce, cioè la nascita, racconta Foucault, la nascita dell'economia politica nell'Ottocento, prima con Adam Smith, poi alla fine del Settecento e prima dell'Ottocento, con Adam Smith, con William Petty, con Ricardo e poi con Marx, ovviamente. Quindi vive, parla e produce, si riferisce a questi tre, a queste tre grandi parti in cui è diviso il libro di Foucault, le parole e le cose. L'uomo, che è l'oggetto delle scienze umane, di cui Foucault dice che è un'invenzione recente, è un produttore di cultura, in corsivo. Le scienze umane nascono nel momento in cui la produzione di cultura, l'elaborazione, la fruizione e lo scambio di rappresentazioni di sé sequestra l'identità dell'uomo e l'uomo culturale si dissocia dall'uomo biologico. Per questo, secondo Foucault, la biologia, l'economia e la filologia o la linguistica non sono scienze umane, né le scienze umane ne costituiscono un prolungamento. Le scienze umane si occupano dell'uomo che vive, parla e produce solo in quanto egli rappresenta a se stesso la sua vita, il suo linguaggio e il suo lavoro. Così scrive Foucault per quanto riguarda l'economia, pagina 364 della edizione Rizzoli, che suppongo sia la stessa che ho io. Sì, qui questa è la stessa. Quindi saranno proprio le stesse pagine. Ve l'ho detto del libro di Foucault, Le parole cose, citazione di Foucault. L'oggetto delle scienze umane non è l'uomo che sin dall'alba del mondo è votato al lavoro, è invece l'essere che dall'interno delle forme di produzione che governano tutta la sua esistenza si forma la rappresentazione di quei bisogni e della società mediante la quale, con la quale o contro la quale egli li soddisfa, finché a partire da lì egli giunge infine a darsi la rappresentazione dell'economia stessa. Sempre un po' che parla. Le scienze umane non sono l'analisi di ciò che l'uomo è per natura. È chiaro? Le scienze umane non sono l'analisi di ciò che l'uomo è per natura. Fine della citazione di Foucault. Adesso parla Marconi. Ma di ciò che egli è divenuto per cultura, ed è comunque un giusto riassunto delle posizioni foucaultiane. L'uomo di cui parlano le scienze umane, ricomincia una citazione di Foucault, non si dà mai nel modo d'essere di un funzionamento biologico. Esso inizia là dove cessa non l'azione o gli effetti, ma l'essere proprio di questo funzionamento, e cioè là dove si liberano delle rappresentazioni, vere o false, chiare o oscure, del tutto consapevoli o invece immerse nella profondità di una qualche sonnolenza, osservabili direttamente o indirettamente. La ricerca delle connessioni intracorticali tra i diversi centri di integrazione del linguaggio, uditivi, visivi, motori, non appartiene alle scienze umane, ovviamente appartiene alla neurofisiologia. Queste, le scienze umane, entreranno in gioco quando si comincerà a interrogare questo spazio di parola, questa presenza o d'oblio del loro senso, questo scarto tra ciò che si vuol dire e l'articolazione che è investita da questa intenzione. Fine della citazione di Foucault. Le scienze umane di cui parla Foucault e il concetto di uomo che esse impiegano si fondano dunque su una radicale dissociazione tra uomo biologico e uomo culturale. Attenzione, sta parlando uno che non è totalmente d'accordo con Foucault, quindi andateci cauti a pensare che Foucault abbia davvero parlato di una radicale dissociazione tra uomo culturale e biologico, però a un primo livello può essere così, si può leggere così Foucault, certo. Quindi Rileggo. Le scienze umane di cui parla Foucault e il concetto di uomo che esse impiegano si fondano dunque su una radicale dissociazione tra uomo biologico e uomo culturale, tra il mondo dei fatti, inclusi i fatti della vita dell'uomo, e il mondo delle rappresentazioni. Forse la caratterizzazione delle scienze umane proposta da Foucault non era del tutto convincente nemmeno alla fine degli anni 60, quando Foucault scrive il libro. Tuttavia, dice sempre Marconi, egli coglieva a perfezione lo spirito dei suoi tempi, e in particolare l'immagine dell'uomo che possiamo dire, in modo ormai retrospettivo, caratteristica di buona parte della seconda metà del XX secolo. Tenete conto che il libro di Marconi da cui sono tratte queste pagine è uscito nel 2001. In questa immagine l'uomo è essenzialmente un produttore di rappresentazioni. È uno che sogna e racconta i suoi sogni, scrive storie e romanzi, elabora ideologie e aderisce ad esse, ha aspettative economiche, progetta edifici e oggetti d'uso, inventa immagini e slogan pubblicitari, parla di sé e degli altri, racconta barzellette, alcuni più degli altri, prega. Le barzellette prega. L'uomo di Hans-Georg Gadamer e di Roland Barthes, di Claude Lévi-Strauss e di Umberto Eco, di Jacques Le Goff e di Pierre Bourdieu, sembra avere un corpo solo per averne un'immagine, sembra appartenere a una specie animale solo per poterne tramutare la realtà biologica nei più variegati miti etnici, e sembra avere un cervello solo per potervi seppellire da qualche parte il più fecondo degli elaboratori di miti, l'inconscio. È un po' ironico, qua Marconi, cercate di capire. Del resto, seguendo una traccia hegeliana, il mondo delle rappresentazioni, questo è un colpo basso, accusare Foucault di hegelismo è uno dei colpi più bassi che si possono fare. Del resto, seguendo una traccia hegeliana, il mondo delle rappresentazioni ha ormai invaso il mondo dei fatti e delle cose. Non ci sono, virgolette, oggetti naturali. Tutto è un prodotto culturale, costituito dal linguaggio, il quale a sua volta è eminentemente culturale e sociale, marcato dall'ideologia, posto in essere attraverso pratiche sociali a loro volta specifiche di ciascuna cultura. Non c'è quindi un al di là materiale che vincoli in qualche modo il mondo delle rappresentazioni. Ciò che qualche volta viene chiamato materiale, scienza, tecnologia, rapporti di produzione, è in realtà culturale a sua volta. Adesso io resisto alla tentazione di spiegarvi come leggo io, diciamo, Foucault, perché forse ve l'ho già detto le volte scorse, quindi, e vado avanti a leggere Marconi. Comunque voglio che sia chiaro che non è il modo in cui io leggo Foucault questo. Questa dissociazione non è così, diciamo, radicale. Il problema, come vi ho già detto fin dalla prima volta, credo che sia impossibile negare il problema delle relazioni tra culturale e, diciamo, biologico. E assumere l'uomo come un concetto culturale non può voler dire negarne il substrato biologico. Credo che la posizione giusta sia quella di assumere questo problema della difficoltà di spiegare il culturale a partire dal biologico come un problema, e quindi non pensare che l'esistenza del biologico già oggi di per sé e in quanto tale spiega l'esistenza culturale. In ultima analisi sarà ovviamente così, non può essere diciamo diversamente, però può essere che ancora alcuni passaggini per spiegare questo passaggio ci manchino e non siano ancora, quindi tanto vale nella fase in cui, come dire, possiamo dedicarci intanto allo studio il più possibile approfondito di come funziona davvero la cultura. Ed è questa la, diciamo, ragione per la quale credo che si debba abbandonare ogni ipotesi universalista sulla questione delle culture. Capisco che l'universalismo dei cognitivisti è un po' più fondato di quello degli hegeliani, ovviamente, perché loro si basano più che altro sul stato biologico, però spesso i cognitivisti danno per acquisito quello che ancora acquisito non è, cioè la costruzione di ponti e di spiegazioni coerenti e complete tra cose là. Questo non lo dice Marconi, lo dice Caronia. Torniamo a Marconi. È facile vedere che questa immagine integralmente culturale dell'uomo portava con sé la sua indefinita plasticità, o come a volte si è detto, la dissoluzione della natura umana. È chiaro? Quindi, ogni ipotesi rigorosamente culturalista sull'uomo ha come conseguenza il negare che esista qualche cosa chiamato natura umana, perché la natura umana porterebbe dall'altra parte. Se l'uomo è essenzialmente un produttore di cultura, ciò che egli è finisce per dipendere dalla cultura che produce. Se non ci sono oggetti naturali, ma solo oggetti culturali, anche l'uomo è un oggetto culturale, nient'altro che la più brillante delle sue invenzioni, giusto? E anzi, non un oggetto culturale, ma una miriade di oggetti culturali, tanti quanti sono i progetti di umanità elaborati dalle singole culture e all'interno di ciascuna di esse. Quindi la natura umana, per un verso, si moltiplica nelle forme di vita umana caratteristiche delle diverse culture. E per l'altro verso si svuota di contenuto, diventando una tabula rasa su cui disegnare ipotesi di umanità che hanno lo statuto di personaggi letterari. E forse anche in questo senso che veniva tanto spesso ricordato il detto di Nietzsche nel Crepuscolo degli Idoli: il mondo vero è diventato favola. Sicuramente Nietzsche diceva, scrisse questa cosa con intenzioni molto diverse, d'accordo? Però è una buona descrizione, il mondo vero è diventato favola. Da dove veniva questa scissione tra uomo biologico e uomo culturale, con la conseguente dissoluzione dell'idea stessa di natura umana? Certamente da molto lontano. Già nel XVII secolo, però, già nel XVII secolo, le esplorazioni geografiche, con il loro seguito di più o meno immaginarie scoperte, di strane usanze, di credenze paradossali, di sistemi morali alieni, aveva indotto Locke, John Locke, a dubitare che l'umanità condividesse un sistema innato di idee metafisiche e principi etici. L'asserzione di Locke sta nell'opera Saggio concernente l'intelletto umano, Saggio sull'intelletto umano, e nel Essay Concerning Human Understanding, che è del 1690. Allora, avevano indotto Locke a dubitare che l'umanità condividesse un sistema innato di idee metafisiche e di principi etici, e avevano aperto la strada alla retorica anti-etnocentrica degli illuministi. Due secoli più tardi, l'esigenza di un controllo più sottile e meno violento delle popolazioni dei territori coloniali generò l'antropologia nel senso moderno del termine, corretto, è vero, e specialmente in quello che è stato fino a poco fa il nostro secolo, lui parla del 2001, gli antropologi misero sotto i nostri occhi lo spettacolo dell'infinita varietà e difformità dei modi di essere uomini e donne sul nostro pianeta. Non si trattava soltanto della registrazione di sempre nuove credenze, rituali, strutture di parentela, forme di organizzazione sociale, istituti economici, tipi di cultura materiale e formale e così via. Si trattava della registrazione di sempre nuove identità umane, identità. Perché prevaleva tra gli antropologi in varie forme la convinzione che i diversi elementi di quella che si era cominciato a chiamare una cultura fossero sistema, facessero sistema, si richiamassero l'un l'altro in modo da dar luogo a una specifica forma di vita umana. Se si guardava all'umanità da questo punto di vista, dal punto di vista dell'infinita varietà delle forme di vita, poteva sembrare che la mera identità biologica della specie, l'essere Homo sapiens sapiens, non implicasse poi granché. A quanto pareva, quell'identità biologica non vincolava né i nostri concetti né le nostre credenze, non determinava come erano fatte le nostre famiglie, là dove c'erano famiglie, le nostre religioni, là dove esistevano religioni, i nostri sistemi educativi, per chi ne aveva uno, i nostri costumi sessuali, nulla di ciò che si era abituati a considerare propriamente umano. Sembrava che quel 2% di geni che ci distinguessero dagli scimpanzé determinassero soltanto un'inventiva senza confini. L'umanità, più che una specie, era una capacità di interpretazione. Ovviamente Marconi scrive tutto questo in modo non proprio sarcastico, ma quasi, ma io lo trovo invece una descrizione precisa di come bisognerebbe pensare. Non ci trovo nulla di strano io nel fatto che l'umanità sia più che una specie, sia una capacità di interpretazione. Se siamo fatti così, siamo fatti così. Devo dire a commento di questo che anche però la ricostruzione che fa qui Marconi dell'antropologia è un po' ingenerosa. È ingenerosa perché in questo momento a lui gli interessa sottolineare soprattutto il relativismo dell'antropologia. Però Marconi sa bene, però credo che se ne dimentichi in maniera proprio voluta in questo momento, che tra gli anni 40 e gli anni 50 nell'antropologia si determinò una piccola grande rivoluzione riconducibile soprattutto a Lévi-Strauss, e cioè la cosiddetta antropologia strutturale, come la definì Lévi-Strauss, che era invece un tentativo che andava all'opposto di questo che dice lui, cioè era esattamente il tentativo di recuperare una dimensione universale, universalista, anche a livello culturale. Quando Lévi-Strauss nel 48 pubblica Le strutture elementari della parentela, non fa altro che tentare di fare emergere un meccanismo, un dispositivo, avrebbe detto Foucault anni più tardi, culturale, unitario, dietro a tutta la enorme disparità e divergenza dei differenti sistemi di parentela nel mondo. Lévi-Strauss cerca di convincersi con quel libro che dietro al modo di sposarsi che hanno gli Asande e quello che avevano gli indiani algonchini, c'è in realtà dietro un'unica struttura mentale puramente culturale, che poi corrisponde evidentemente anche a una certa unitarietà. Quindi non è vero che l'antropologia ha fatto soltanto questo lavoro, diciamo, di decostruzione, decostruttivista, che ci dice Marconi, ha tentato anche di fare un lavoro opposto. Quanto poi ci sia riuscito naturalmente è, come dire, opinabile, cioè possiamo discutere, possiamo essere d'accordo con l'ipotesi di Lévi-Strauss oppure no, possiamo dire che la sua opera è più o meno convincente, ma non possiamo dimenticare che anche dentro l'antropologia è nata una tendenza e si è sviluppata una tendenza di quel tipo lì. Il cuore dell'argomento antropologico per la dissociazione tra il biologico e il culturale era il linguaggio. Qui il discorso aveva tre premesse. In primo luogo, veniva data per scontata l'estrema varietà delle lingue, una varietà non solo superficiale ma profonda. L'estrema varietà delle lingue va in profondo, la varietà delle lingue non è solo in superficie, le lingue sono diverse davvero. In secondo luogo, si dava ugualmente per scontato il carattere culturale del linguaggio. Un linguaggio, una lingua come la nostra lingua madre, è qualcosa che si impara e si insegna, dunque è oggetto di una pratica sociale di addestramento, come l'agricoltura e la pesca, la scrittura e la religione. Qui è un po' stronzo perché nessuno ha mai sostenuto che il linguaggio si impara come l'agricoltura e la pesca, però va bene, cazzi suoi, gli serve per fare una polemica, e perciò dipende dalla cultura in cui quella pratica sociale si iscrive, questo è vero. E infine, terza premessa, il linguaggio retroagisce su ogni aspetto della cultura di un popolo, mediando in maniera essenziale le interazioni sociali, le realizzazioni istituzionali, la stessa affettività. Attraverso il linguaggio una comunità definisce la propria ontologia, dice quali cose esistono per la comunità e per ciascun suo membro e come quelle cose possono essere fatte. Questa terza premessa era spesso integrata con l'idea, nota come tesi di Sapir-Whorf, secondo cui il linguaggio condiziona il pensiero e non si limita ad esprimerlo. I membri di una comunità la cui lingua ha soltanto tre termini per i colori, vedranno soltanto tre colori. Gli eschimesi, la cui lingua ha 400 diverse parole per designare i diversi stati della neve, penseranno alla neve, nessuno ha mai detto che erano 400, poi no, se poi c'è una polemica dopo, cioè alcune delle robe se le costruisce lui apposta così, insomma, però comunque il principio di relatività linguistica è espresso bene, insomma, onestamente, cioè. Allora, gli eschimesi la cui lingua ha 400 parole diverse per designare i diversi stati della neve penseranno alla neve, forse la percepiranno diversamente da noi. Gli indiani Hopi, la cui lingua non ha tempi verbali, non hanno il concetto di tempo, anche qui devo smentire perché Worf, che è quello che ha studiato la lingua Hopi, non ha mai sostenuto che gli Hopi non hanno il concetto di tempo, ha sostenuto che hanno un concetto di tempo diverso dal nostro, certo, perché hanno dei tempi verbali diversissimi, cioè praticamente non hanno tempi verbali, insomma, di fatto i loro verbi sono sempre declinati al presente, il che non impedisce alla lingua Hopi di sapere esprimere azioni avvenute, però per esempio loro distinguono tra azioni avvenute e che non hanno più effetti sul presente e azioni avvenute in passato i cui effetti durano ancora oggi. Tipo loro diranno in modo diverso, il latte è inacidito o nello Yucatan c'è stata una eruzione 5.000 anni fa, per dire. Sono due modi di esprimere di parlare diverso. Lui poi semplifica un po', quindi, però tenete conto che alcune delle cose di cui lui accusa i relativisti, non le hanno molto. Conclusione, no, e così continuando, parentesi, non per molto tempo tuttavia, gli esempi che si facevano erano pochi e sempre gli stessi, è velenosino, Conclusione che recuperava idee filosofiche del primo romanticismo. La varietà delle lingue testimonia l'indipendenza del linguaggio dalla biologia. Ma una lingua è il cuore di una cultura e il veicolo, se non l'essenza, di una forma di pensiero. Dunque ciò che nell'uomo è naturale, nel senso biologico del termine, non determina ciò che nell'uomo è propriamente umano, il suo pensiero e la sua cultura. L'espressione natura umana diventa quasi un ossimoro. Ciò che è propriamente umano non è naturale. Un contributo alla dissociazione venne anche dalla psicologia comportamentista, come vi ho accennato prima, che per alcuni decenni del Novecento era riuscita a farsi identificare con la psicologia scientifica. I comportamentisti pensavano che grazie alle tecniche dette di condizionamento ogni singolo essere umano fosse completamente manipolabile indipendentemente dai suoi talenti, inclinazioni, tendenze, capacità, vocazioni e dalla razza dei suoi antenati, citazione da Watson, dall'opera di Watson del 25, che però essendo citata da un altro anticomportamentista non c'è, non sappiamo che opera sia. Manipolabile nel senso che i suoi modelli di comportamento potevano essere plasmati a piacere di chiunque, si poteva fare un avvocato o un artista, un ladro o un uomo onesto. Naturalmente questo modo, questo è quello che ha creato la rovina poi del comportamentismo, perché era chiaramente una cosa assurda e peggio ancora aveva, come dire, suonava sinistro. Il comportamentismo nacque prima della Seconda Guerra Mondiale, ma si sviluppò prevalentemente dopo, cioè le sue cose teoriche nascono prima, a metà degli anni 20, ma poi la scuola si sviluppa negli anni 40-50 dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ovviamente sostenere che gli esseri umani sono infinitamente manipolabili, eccetera, eccetera, eccetera, come dire, richiamava alla mente una serie di pratiche manipolatorie e di controllo totale degli individui che ricordavano troppo direttamente la società nazista, senza rendersi conto però che questa sarà stata una aberrazione chiaramente del comportamentismo, ma i punti di partenza del comportamentismo erano totalmente opposti a quelli del nazismo. Il nazismo, semmai, è ascrivibile ad una delle varianti, è molto più vicino alle teorie della natura umana, cioè dell'universalismo, soltanto che a queste teorie universaliste il nazismo, comunque sia il pensiero razzistico, l'eugenetica, eccetera, di qualunque tipo, aggiungevano il corollario che c'è una parte dell'umanità, una particolare diciamo, configurazione biologico-culturale, la cosiddetta mitica razza ariana, che esprime meglio di altre razze l'essenza umana, ma questa natura umana c'era per i nazisti, e come? Soltanto che erano gli ariani che la esprimevano al meglio, mentre gli ebrei, per dire, o comunque in genere le popolazioni semite, per diciamo, non parlare di quelle diciamo, negroidi, ne esprimevano diciamo, il polo negativo o la parte negativa, mentre altre razze, come per esempio quelle asiatiche, stavano in posizione intermedia. Quindi, diciamo, sarebbe stato ingeneroso tacciare il comportamentismo di filo, diciamo, nativo, però era obiettivamente, è così che veniva, come dire, percepito. Poi certamente le ragioni per cui declinò il comportamentismo non sono state soltanto queste, sono altri tipi, però insomma questo è per mettere le cose a posto. Allora, i comportamentisti pensavano che il grado di l'abbiamo già letto, che ogni singolo essere umano fosse manipolabile, che chiunque poteva diventare un avvocato, un artista, chiaramente questa è una puttanata, è ovvio. Dunque, la dotazione naturale, tra virgolette, a maggior ragione il corredo genetico individuale, non aveva rilievo agli effetti della formazione di una determinata personalità o tipo umano. Ancora una volta, l'uomo culturale non doveva nulla all'uomo biologico. Infine, non si deve dimenticare un contributo specificamente filosofico alla dissociazione tra biologia e cultura. Questo è interessante. L'esistenzialismo, in tutte le sue versioni, aveva insistito, allora, l'esistenzialismo è una, diciamo, è la volgarizzazione di una teoria filosofica ben più rilevante, che è la fenomenologia, diciamo, di Husserl, soprattutto di Husserl e in parte di Heidegger. L'esistenzialismo è semplicemente la sua volgarizzazione. Bisogna dire che né Husserl né Heidegger sono mai stati dei relativisti, tutti e due erano, anzi aderivano entrambi al presupposto, alla diciamo credenza, credevano insomma nella esistenza di una natura umana. La fenomenologia, in particolare Husserl, giuste o sbagliate che fossero le sue diciamo, teorie, è sempre stato alla ricerca di universali, anzi è una delle filosofie più universaliste che ci sia, la fenomenologia. Quindi, però è vero che nella sua variante esistenzialista le cose sono più o meno come dice Marconi qua. L'esistenzialismo in tutte le sue versioni aveva insistito nell'attribuire al singolo individuo una illimitata capacità di determinare la propria vita, il suo senso, se non le sue circostanze materiali, grazie alle proprie scelte, a una serie di decisioni incondizionate e infondate. Nella versione forse non particolarmente profonda, non c'è dubbio, ma efficace di Jean-Paul Sartre non è mai stato un filosofo particolarmente profondo, ma ha avuto una grande voga quando ero, insomma, diciamo, giovane io, era uno dei filosofi più in voga, anche perché politicamente a sinistra era una piccola star, insomma, poi vabbè, cazzi suoi. Poi io sono cresciuto e lui è morto, quindi vabbè. Nella versione forse non particolarmente profonda, ma efficace di Jean-Paul Sartre, il singolo diventa interamente responsabile di sé, della propria situazione e in realtà del mondo intero, e ne è responsabile perché ha scelto tutto ciò. Citazione dall'Essere il Nulla di Sartre, che è un'opera del 40, ora comincia, quella di prima, siccome è Marconi. Dice Sartre nell'Essere il Nulla, opera pubblicata nel 1943, quindi in piena guerra mondiale: se sono mobilitato in guerra, questa guerra è la mia, dice Sartre, essa è a mia immagine e me la merito. Potevo infatti sottrarmici, qui è Marconi che riassume, potevo infatti sottrarmici con il suicidio o con la deserzione. Se non l'ho fatto, parla sempre Sartre, se ho preferito la guerra alla morte o al disonore, è come se portassi l'intera responsabilità della guerra. Dunque il singolo può alla lettera, qui parla sempre Marconi, il singolo può alla lettera fare di sé e in fondo del mondo intero ciò che vuole, anche se non ha particolari ragioni di volerne fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. L'esistenzialismo e Jean-Paul Sartre in particolare hanno sempre insistito su questa gratuità della, diciamo, azione. Io avevo 15 anni quando lessi il primo libro di Sartre, che si chiamava L'età della ragione, e ovviamente è rimasto praticamente colpito da una scena nella quale il protagonista maschile, senza alcuna apparente, diciamo, ragione, senza essere particolarmente depresso, senza essere particolarmente triste, un cazzo si chiude in bagno, prende un coltello e se lo conficca nel palmo della mano. È una forma di autolesionismo che però serve a Sartre in quel contesto lì per descrivere qualunque azione umana per Sartre è l'equivalente di quella lì, di conficcarsi senza alcuna ragione, di farsi del male senza alcuna ragione. Non per sentirsi vivo, ma perché questo è, perché c'è un'altra. Allora, ovviamente voi tutti dire, quello è un romanzo, ma infatti Sartre è un. Questa è la mia idea di Sartre, che sia stato un mediocre romanziere e un confuso filosofo, però insomma questo è quello che... Dunque il singolo può, alla lettera, fare di sé e in fondo del mondo intero ciò che vuole, anche se non ha particolari ragioni di volerne fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Non che Sartre o altri esistenzialisti volessero dire ovviamente che siamo in grado di farci spuntare le ali o le branchie. Essi intendevano farci cogliere l'elemento di scelta che c'è anche in ciò che appare adesione passiva, routine, abitudine. Esattamente il contrario, mi permetto una breve digressione, della critica al concetto di libertà che fece 2 secoli e mezzo prima Spinoza. Al contrario di Sartre, al contrario di quello che aveva detto poi Sartre, ovviamente, non è che Spinoza non sapeva neppure che ci fosse questo Sartre, diciamo comunque, quello che Spinoza sottolinea è che spesso il carattere libero del nostro comportamento è una illusione, noi ci illudiamo di essere liberi. In realtà siamo sotto l'azione di forze anche interne o della nostra storia particolare o Spinoza parla più che altro, noi siamo il risultato di una delle tante articolazioni delle infinite possibilità della materia, che è il vero Dio per Spinoza. Deus, sì, la natura, Dio o la natura, Dio o la materia, in effetti. Sartre, Spinoza è uno che continua a usare il nome Dio, ma in effetti è una delle forme di filosofia più radicalmente atee che ci siano, anche se parla di Dio, perché il panteismo radicale porta chiaramente all'ateismo, se per ateismo intendiamo l'impossibilità di credere nell'esistenza di un Dio come una essenza, come una qualità separata dal mondo. Se poi io chiamo Dio il mondo, lo posso chiamare come voglio il mondo, l'insieme, la natura, tutte le cose, bisogna chiamarlo Dio, chiamiamolo Dio, possiamo chiamare San Chiapone, come tanto ci pare, cioè, ma non è diciamo, la questione del nome, il fatto di dare il nome di Dio. Quindi una filosofia come quella di Spinoza, rigorosamente panteista, è anche per ciò stesso radicalmente atea, anche se usa il nome o il termine, diciamo, di Dio che può essere usato. Bene, questo è esattamente l'opposto di come la pensava Sartre e in parte Heidegger, che era il grande ispiratore di Sartre, perlomeno il primo Heidegger, quello di essere tempo. E da un certo punto di vista però possiamo dire che, questo è sempre, sono sempre io che parlo, non parlo Marconi adesso, si potrebbe dire, però potremmo concludere che entro certi limiti la contrapposizione non è poi così forte o così radicale, nel senso che è indubitabile l'esistenza di uno spazio di libertà, cioè di uno spazio di scelta in qualche modo, non solo per gli esseri umani, per tutti gli esseri viventi, per tutte le forme di vita, perlomeno per quelle animali, ma forse per certi limiti anche per quelle vegetali. Semplicemente questo spazio di scelta, questa libertà, non ha una esistenza, come dire, obiettiva, esiste relativamente alla coscienza che uno ne ha o che uno non ne ha. Quindi da un certo punto di vista, anche quello che diceva Spinoza è relativamente poco importante. Forse essere liberi è soltanto una illusione, ma è un'illusione che determina la mia possibilità di scegliere. Poi è possibile che tutto fosse predeterminato da un certo punto di vista, perché in realtà poi Spinoza non dice che tutto è predeterminato. Il fatto è che da una generale determinazione del singolo, diciamo, individuo, del singolo agglomerato di materia, che genericamente è sottoposto ed è determinato come tutti gli altri individui alle leggi o al comportamento generale della materia in quanto tale, ma se questo comportamento, se questa, chiamiamola ontologia, se l'ontologia, come dire, materialistica, comporta l'esistenza di un'unica sostanza, diciamo, di un'unica, virgolette, essenza nel mondo, che è appunto la materia, ma la cui caratteristica è quella di essere infinitamente plastica, diciamo, di essere l'unico vero Dio del mondo, la materia, perché la materia assume di fatto una pluralità, diciamo, come dire, potenzialmente una infinità di, chiamiamole, diciamo, incarnazioni, di specificazioni. Ogni volta che la materia si specifica entro limiti di spazio e di tempo, assume forme diverse da come si è specificata prima, insomma, no? Si intende che questo concetto di come dire, materia è un po' diverso dalla materia come la intendono i fisici, i chimici e anche i biologi, perché per loro la materia è fatta, cioè, per le caratteristiche sono gli atomi, i quark, eccetera, eccetera, forse addirittura le stringhe. Siccome però, adesso poi dopo Marconi ce l'avrà pure con questo modo di pensare, ma insomma, siccome le teorie, diciamo, scientifiche sono suscettibili di cambiare, sono cambiate già tante volte durante il corso della storia dell'uomo, che non, cioè, la scienza come, diciamo, assoluto fa un po' ridere, insomma, nel senso che la scienza è ottima come ricerca continua, però l'illusione degli, diciamo, scienziati di avere finalmente afferrato la verità, dice, questa finalmente è la verità, è bravo, e dopo arriva, nel corso del Novecento è già aperto. Allora adesso così sono a scoprire due grandi teorie bellissime, funzionano tutte e due, bene, esattamente nella fisica, sono la teoria della relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica. Cazzo, peccato che siano in contraddizione, peccato che non possono essere. E allora è circa un secolo che i fisici stanno dietro a tentare di trovare una ulteriore teoria che unifichi le due. E hanno ragione, fanno bene a farlo, perché facendo così si acquisiscono sempre, sappiamo sempre più cose sul mondo, non c'è dubbio. Adesso forse è circa 25 anni che ci sono alcune, diciamo, candidate a questo del tutto, e una di queste è la teoria delle stringhe. Perfetta, ottima, bellissima, affascinante. Io la insegno alla NABA in un corso, in un pezzo di corso che faccio. Però, come dire, sarebbe veramente eccessivo convincerci che la teoria delle stringhe sarà l'assoluto, sarà quella definitiva. Non ce n'è una teoria scientifica definitiva, non esiste una teoria scientifica definitiva. Il comportamento e le potenzialità della materia eccedono anche le teorie scientifiche che tentano di descriverla e imbrigliarla. Se la scienza vuole imbrigliare, cioè, è ottimo il lavoro che fa la scienza da un punto di vista epistemologico, perché ci dà delle possibilità. Dice, cazzo, adesso proprio così, dice, la fisica di Newton è migliore di quella di Aristotele, da un certo punto di vista. Quella di Einstein e di Dirac e di Niels Bohr è migliore di quella di Newton. Se altre delle stringhe verrà, sarà migliore di quella delle altre, ma questo non vuol dire, no, questo non vuol dire un cazzo. Fare il salto dalla epistemologia alla ontologia e dire le teorie scientifiche descrivono il mondo come è davvero è ridicolo, ridicolo. Il mondo com'è davvero, questo l'aveva già chiarito Kant alla fine del Settecento, il mondo com'è davvero, non lo si potrà mai sapere, non lo sa, non lo può sapere nessuno, il noumeno è inconoscibile, la realtà esiste, certo, che siamo mica cretini, come il vecchio Berg diceva che se io voltavo la testa, diciamo l'albero non esisteva più, tutte cazzate queste, è ovvio. Ma questo albero, che cos'è? L'essenza? L'assoluto? L'albero è una delle tante manifestazioni della materia. La materia in quanto tale è inconoscibile, in quanto tale, nella sua essenza intima, sapere cos'è davvero la materia. Nessuna teoria scientifica ci dice cos'è la materia, ci dice sempre meglio come si comporta. E però la potenzialità di comportamento della materia è tale che si comporta in modi molto diversi e quindi ogni teoria scientifica non fa altro che coglierne aspetti sempre più precisi, sempre migliori, ma dal punto di vista epistemologico e pratico, dal punto di vista della nostra conoscenza, ma sull'ontologia, sulla realtà dell'essere, picchio, non si può dire un bel accidente. E che chiunque si illuda di passare dalla epistemologia alla ontologia, come ha fatto per primo diciamo Parmenide e dopo di lui Platone, è un'illusione pensare di poter attingere a questo è l'assoluto, finalmente. L'aspirazione all'assoluto è una costante nella storia dell'umanità e nessuno ce ne libererà mai e per fortuna va bene, ma finché è un'aspirazione, cioè finché siamo consapevoli e coscienti che avremo voglia di, perché siamo animali linguistici, mi spiace per Marconi, ma allora, chiusa, fine della parentesi. Quindi non che Sartre e altri esistenzialisti volessero dire ovviamente che noi siamo in grado di farci spuntare le ali o le branchie, essi intendevano farci cogliere l'elemento di scelta che c'è anche in ciò che appare a adesione passiva, routine, abitudine. E tuttavia, l'invadente gergo esistenzialista della decisione, della scelta e del progetto portava inevitabilmente a concentrare l'attenzione su ciò che è in senso forte oggetto di scelta e materia di progettazione e a farne l'essenza dell'umano. Dunque l'azione deliberata, il dominio dell'etica, della politica e della creazione artistica e dall'altra parte l'attività interpretativa cosciente con la quale ci appropriamo di una situazione e la facciamo nostra, la scegliamo, detta nel gergo dell'esistenzialismo. Di fronte a tutto questo, l'uomo naturale appariva come materia oscura e muta, in attesa di essere umanizzata dalla decisione con la D maiuscola. Adesso arriva il Castigamatti, però non dobbiamo dimenticarci che Marconi è un cognitivista e quindi un universalista, e quindi ci racconta il castigo di tutte queste brutte teorie relativiste precedenti, dall'esistenzialismo al Foucaultismo, che vengono finalmente punite. Poi però ci sarà un colpo di scena finale, per questo che sto dicendo questo pezzo, perché diciamo è come un giallo in cui però cambiano. Però adesso siamo alla prima, infatti si chiama questo paragrafo Il ritorno della natura umana. Ritorniamo a Foucault. Mentre caratterizzava l'uomo, l'oggetto delle scienze umane, come un'invenzione recente, Michel Foucault ne annunciava al tempo stesso la prossima fine, non tanto della nicciana morte di Dio, quanto piuttosto della fine dell'uomo. Ed è esattamente, adesso qui smette di parlare Marconi e Caronia fa una notazione autobiografica, ed è esattamente su queste parole, su questa idea di Foucault che l'uomo stesse per finire, che io ho basato negli ultimi 15 anni il mio studio del postumano, cioè di quello che viene dopo l'uomo nel senso foucaultiano, perché che è posto l'uomo già l'aveva detto, quindi siamo già nella fase del Nietzsche aveva detto l'oltre uomo, che poi gli stronzi a partire dalla sorella equivocarono come superuomo e ne diedero l'interpretazione che ne diedero facendo passare Nietzsche per un precursore del diciamo, nazismo, non c'è cosa più stupida di questa, perché Nietzsche era tutto fuorché nazista. Certo era antimoderno, era tutto di cose, ma non chiaramente per caso. E comunque il suo Übermensch è molto più simile al postumano di oggi di cui parlano alcuni pensatori contemporanei che non al superuomo di tipo fascista. Comunque vabbè. Torniamo. Facciamo parlare Marconi, perché cazzo mi ero proposto di non commentare, invece sto commentando sin troppo. Allora, mentre caratterizzava l'uomo, l'oggetto delle scienze umane, come un'invenzione recente, Michel Foucault ne annunciava al tempo stesso la prossima fine, non tanto della nicciana morte di Dio, quanto piuttosto della fine dell'uomo. Nel proliferare dei progetti di formalizzazione, nella concentrazione della letteratura di quegli anni, siamo negli anni 60, su di un linguaggio senza soggetto, come nel cosiddetto nouveau roman, Alain Robrillet, cinematograficamente l'anno scorso, Marien Bad, di Resnais, eccetera, eccetera. Nel proliferare dei progetti di formalizzazione, nella concentrazione della letteratura di quegli anni su un linguaggio senza soggetto, egli vedeva le strategie, le avvisaglie di un ritorno del linguaggio. Citazione dalle parole e le cose. L'uomo sta morendo nella misura in cui splende più forte all'orizzonte l'essere del linguaggio. Sarebbe stato forse confortato nella sua profezia se avesse avuto sentore del prossimo avvento dell'informatica, per non parlare di internet. Tuttavia, a 30 anni di distanza, l'impressione prevalente è che ciò di cui Foucault intravedeva l'avvento abbia avuto vita effimera, dice Marconi. C'è stato effettivamente un momento in cui il mondo è sembrato spopolarsi degli uomini per essere avvolto nella rete del linguaggio. Un linguaggio senza parlanti, di cui gli uomini, dicevano alcuni, erano tutto al più strumenti. Questi alcuni che dice lui, non lo cita, ma il più importante è Jacques Lacan, quando disse non siamo noi che parliamo, ma è il linguaggio che ci parla. Questa idea che, diciamo, il linguaggio fosse o dall'altro punto di vista, dal punto di vista opposto, ma erano più o meno gli stessi anni, William Burroughs negli Stati Uniti, quando diceva language is a virus, il linguaggio è un virus venuto dallo spazio che ha colonizzato l'uomo. Ovviamente ipotesi che non va presa alla lettera, ma va presa come una metafora molto bella di questo concetto, cioè che il linguaggio sia una specie di dispositivo, insomma, che da un certo punto di vista coincide con l'uomo, dall'altro punto di vista lo supera. Ma secondo Marconi tutto questo dura poco. Infatti, ma quel momento è durato poco. Nel giro di pochi anni il linguaggio sarebbe tornato a essere concepito come una facoltà umana. Eppure Foucault aveva ragione. Oh, ma guarda. Eppure Foucault aveva ragione quando dava voce alla sua, virgolette, impressione di un compimento e di una fine. E quando gli sembrava che qualcosa di nuovo stesse cominciando. Sono sempre citazioni da Foucault. Quanto al modo di considerare l'uomo. Quello che stava tramontando, ecco arriva il colpo, quello che stava tramontando era per l'appunto la dissociazione tra natura e cultura, tra uomo biologico e uomo culturale. Quello che cominciava era il naturalismo in cui ci troviamo immersi in questi anni, dice Marconi. Quello che stava tornando non era il linguaggio, ma niente meno la natura umana. Boh, facciamolo parlare, sennò poi dicono che boicotto gli universalisti e i naturalisti. Come abbiamo ricordato nel capitolo 1 di questo libro, quindi non l'abbiamo letto, nel 1959 il giovane linguista Noam Chomsky pubblicò una recensione del comportamento verbale, opera capitale del più influente tra i comportamentisti, Bogus e Skinner. Abbiamo visto come in quella recensione Chomsky confutasse, in maniera che sarebbe presto apparsa definitiva, il modello comportamentista dell'acquisizione del linguaggio, innescando la crisi teorica da cui il comportamentismo non si sarebbe ripreso, è vero. In seguito Chomsky avrebbe contribuito a demolire buona parte dei presupposti della concezione culturalista del linguaggio. In particolare la diversità delle lingue, che oggi appare meno profonda e radicale di come poteva sembrare negli anni 50, e l'idea che l'acquisizione della lingua madre sia in tutto e per tutto il risultato di un addestramento paragonabile a quello con cui si insegna il gioco degli scacchi. Ai ai ai. Oggi la maggior parte di noi pensa che le parole si apprendono, ma che il linguaggio si sviluppa come lo scheletro. Più di quanto non si impari, al contrario della scrittura o del gioco degli scacchi. Il relativismo antropologico non avrebbe avuto sorte migliore. Nel corso degli anni Ottanta vennero smontati molti dei luoghi comuni che erano stati usati per corroborare la tesi di Sapir-Whorf, l'idea che il linguaggio condizioni il pensiero. Prendiamo ad esempio gli eschimesi. Citazione da un'opera di Pink, che è un deciso innatista e chomskiano, chiamata L'istinto del linguaggio, opera del 1994, pubblicata in Italia un po' dopo. Pinker. Contrariamente alla credenza popolare, gli eschimesi non hanno più vocaboli per definire la neve di quanti ne abbiano i parlanti dell'inglese. Non ne hanno 400, né 200, né 100, né 48 e nemmeno 9. Un dizionario riduce la cifra a 2. Contando generosamente, gli esperti possono arrivare a circa 12, ma con questi parametri anche in inglese non sarebbe da meno. Oppure prendiamo i termini di colore. Abbiamo visto, sempre prima del libro, come la psicologa Eleanor Roche dimostrasse che se prendiamo una popolazione la cui lingua ha pochi termini di colore, come i Dani della Nuova Guinea, che ne hanno solo due, e inventiamo per loro dei nuovi termini di colore, essi impareranno più facilmente quelli che abbiamo fatto corrispondere a colori focali, che corrispondono a loro volta ai picchi di certe funzioni fisiologiche. È la struttura della percezione del colore a determinare il linguaggio e non viceversa. Non si capisce allora perché però questi Dani abbiano due sole parole per dire il colore, se questi tutti dovremmo avere le stesse. I lessici del colore variano effettivamente da lingua a lingua, ma questo non vuol dire che chi parla lingue diverse veda colori diversi o un numero diverso di colori. La visione del colore è determinata fisiologicamente, tutti vediamo gli stessi colori, comunque li chiamiamo. Citazione da Pinker, gli esseri umani di tutto il mondo colorano il loro mondo percettivo usando la stessa tavolozza. Quello dei colori è un buon esempio di una differenza di superficie a cui non corrisponde alcuna differenza profonda. Ma per cogliere questa unità profonda al di sotto della varietà superficiale c'è stato bisogno di uno sguardo diverso da quello delle scienze umane di cui parlava Foucault. Si trattava di prendere a oggetto non tanto le rappresentazioni simboliche, testi, discorsi, rituali, miti, ideologie, o i sistemi di rappresentazioni, quanto piuttosto le capacità umane che erano alla base della formazione, elaborazione e comprensione di rappresentazioni e i processi mediante i quali esse erano formate, elaborate e comprese. Quindi, secondo Marconi, la critica del relativismo antropologico e culturale starebbe, vediamo se ce la fa, io lo lascio parlare, starebbe nello spostamento di accento dagli effetti, cioè dalle rappresentazioni già elaborate a livello del simbolico, ad un terreno retrostante, quello delle capacità. C'è una capacità umana di rappresentazione, nessuno ne dubita, c'è una capacità umana di parlare, nessuno ne dubita, e ci sono dei processi mediante i quali queste rappresentazioni vengono formate, elaborate e comprese. Questo è stato appunto ciò che la scienza cognitiva ha cercato di fare, lui ovviamente si difende pro Cicero, pro domo sua, ed è per questa via che essa ha contribuito a riabilitare la nozione di natura umana. Ai ai ai, allora, questo scriviamocelo, perché però qui capite che cosa sta facendo Marconi. Sta cercando di stabilire una equivalenza tra capacità, ability o skill in inglese, e la tanto misteriosa e suggente natura umana. Questo è stato appunto ciò che la scienza cognitiva ha tentato di fare, ed è per questa via che essa ha contribuito a riabilitare la nozione di natura umana. I modelli della visione e del riconoscimento di oggetti, della generazione della comprensione del linguaggio, del ragionamento e di altri processi cognitivi elaborati nel corso degli anni 70 e 80 dalla scienza cognitiva erano modelli universali. Essi non discriminavano tra gli europei occidentali, i Nuer e gli Azand, perché non risultava che a livello di questi processi cognitivi di base gli uomini fossero significativamente diversi a seconda della cultura di appartenenza. Come abbiamo visto, la dissoluzione della natura umana si era alimentata della varietà dei prodotti e dei sistemi simbolici. Ora questa varietà appariva un effetto di superficie e l'universalità dei modelli, dei processi cognitivi, portava con sé la ricostituzione della natura umana. E allora segniamo anche l'altra parolina che è emersa qua. Mi piace di decostruire così un po' i Marconi, ma insomma, è un lavoro che è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo. E la parola è modello. La parola è modello. Vedremo se regge tutto questo alla nostra critica, vedremo se il relativismo è davvero così morto come Marconi vuole farci credere. rileggo la frase. Questi modelli della visione, del riconoscimento degli oggetti, del ragionamento, erano modelli universali, essi non discriminavano tra gli europei occidentali, i Neuer e gli Asand, perché non risultava che a livello di questi processi cognitivi di base gli uomini fossero significativamente diversi a seconda della cultura di appartenenza. Come abbiamo visto, la dissoluzione della natura umana si era alimentata della varietà dei prodotti e dei sistemi simbolici, ora questa varietà appariva un effetto di superficie e l'universalità dei modelli, dei processi cognitivi portava con sé la ricostituzione della natura umana. Riconducendo i processi cognitivi a meccanismi profondi caratteristici della specie, la parola profondo è tipica di tutti gli universalisti, uno dei termini chiave di Chomsky è deep structure, struttura profonda, la cosiddetta grammatica universale di Chomsky non sarebbe altro che la descrizione di questa struttura profonda del linguaggio che sarebbe uguale per tutta l'umanità, a prescindere, che poi si genererebbe per qualche misteriosa ragione questa pluralità di effetti superficiali che sono le varie lingue. Quindi la profondità, riconducendo i processi cognitivi a meccanismi profondi e caratteristici della specie, la scienza cognitiva finiva per descrivere qualcosa come una mente umana universale e transstorica. È vero, il cognitivismo, la scienza cognitiva, descriveva qualcosa come una mente umana universale e al di là della storia, che si è formata così e tale è rimasta e non cambierà mai. Nonostante la sua stima per i risultati di Chomsky e degli altri indagatori dei processi cognitivi umani, Foucault non avrebbe mai accettato che quelle della scienza cognitiva potessero caratterizzarsi come scoperte di certi caratteri oggettivi della nostra specie, è pur cosa. Nel 1971 Foucault e Chomsky si incontrarono, credo per la prima ed unica volta, in un istituto tecnico di Eindhoven, in Olanda, e questo libro è nient'altro che la trascrizione del loro colloquio, per un dibattito ripreso dalla televisione. In quell'occasione il filosofo francese ribadì che le regolarità del mentale non possono non essere considerate come contenuti culturali tra gli altri, emersi in certe circostanze e resi possibili da determinate condizioni storiche. In questo, come in altri casi, Foucault rifiutava di distinguere tra la scienza cognitiva, una determinata formazione storico-culturale, e il suo contenuto, i tratti costitutivi del mentale di cui la scienza cognitiva presume di accertare l'esistenza e la natura. E cita un pezzo del libro stesso, dell'intervento di Foucault, è Foucault che parla, ovviamente lui parlava in francese, quello abbiamo tradotto in italiano. Ho difficoltà ad accettare che tali regolarità siano legate alla mente o alla natura umana come condizioni di esistenza. Mi sembra occorra risituarle all'interno delle altre pratiche umane, economiche, tecniche, politiche, sociologiche, che servono loro da condizione di formazione, comparsa e modello. Mi chiedo se il sistema di regolarità e di limitazioni che rende possibile una scienza non sia rintracciabile anche altrove, al di fuori delle scienze sociali, al di fuori della mente umana, nelle forme sociali, nei rapporti di produzione, nello scontro di classe e così via. Come uno che vedesse nelle leggi di Keplero soltanto il risultato del prevalere di certi modelli epistemologici in un determinato contesto economico, sociologico, eccetera, e rifiutasse di vedervi la descrizione di come i pianeti si muovono e già si muovevano milioni di anni prima di Keplero. Questo per Foucault era difficile accettarlo dal suo punto di vista. Contro questo punto di vista, Chomsky si limitava ad osservare che la natura dell'intelligenza umana certamente non è cambiata in modo sostanziale, probabilmente dall'uomo di Cro-Magnon. Non è stata la scienza cognitiva ad inventarla. Quindi, arrivati a questo punto, abbiamo visto come, secondo Marconi, il relativismo culturale e antropologico abbia avuto una breve, diciamo, stagione, ma sia poi rapidamente declinato di fronte ai colpi di Ariete e al capace, alla forza corazzata di questa scienza cognitiva che abbia finalmente rivelato la struttura profonda della mente, Chomsky con la grammatica universale e la scienza cognitiva secondo i suoi modelli comportamentali. Ma adesso arriva, è un cognitivista che parla, quindi adesso arriva l'ultimo coup de théâtre. E tuttavia sarebbe, credo, un errore pensare che la scienza cognitiva abbia del tutto ricomposto la frattura tra uomo naturale e uomo culturale. In primo luogo si deve ricordare ancora una volta che la scienza cognitiva è lo studio dei processi cognitivi a livello degli algoritmi. Non lo dice un pericoloso relativista, questo, lo dice un cognitivista. La scienza cognitiva è lo studio dei processi cognitivi a livello degli algoritmi. La scienza cognitiva ci spiega i processi della cognizione in quanto siano algoritmizzabili. Ci spiega come procede la mente umana in quanto segue procedimenti, procedure chiaramente definibili, schematizzabili, formalizzabili e in quanto tali ovviamente universali. Nessun relativista ha mai negato che una parte della mente umana faccia uso di strumenti di questo tipo, ci mancherebbe altro, se no non saremmo stati in grado di costruire il computer né prima ancora di costruire la logica matematica. Quello a cui il relativista obietta è che questo esaurisca lo studio della mente umana, è che quel cazzo di modelli rappresentino la mente umana, rappresentino l'essenza della mente umana, rappresentino questa mitica natura umana. Se la natura umana è questa, noi diciamo che la natura umana è una cosa ridicola, che la natura umana è la stessa natura di questo computer. Ripeto, l'ha scritto lui, non l'ho mica detto io, eh? In primo luogo si deve ricordare ancora una volta che la scienza cognitiva è lo studio dei processi cognitivi a livello degli algoritmi, in corsivo, scritto in corsivo da Diego Marconi, non da Antonio Caromia. I modelli proposti dalla scienza cognitiva sono modelli astratti, ad alto livello, direbbe qualcuno, come si usa dire, ugualmente realizzabili da un essere umano e da un sistema artificiale, come un computer. Con una formula, essi sono modelli della mente, non del cervello umano. Della mente, ovviamente, per dire come la concepisce un cognitivista, cioè di un dispositivo che funziona per algoritmi. Dunque, il concetto di essere umano che se ne può far derivare non è ancora la ricomposizione dell'uomo culturale e dell'uomo biologico. E grazie al cazzo, è ovvio che non è così. Perché ci hai detto, hai ammesso adesso che stai studiando una sottocomponente, una parte delle attività cognitive umane, cioè quella parte che funziona come un algoritmo. Perfetto, nessuno ti contesta che tu faccia questo e fai un ottimo lavoro, probabilmente quello che tu fai, quello che i cognitivisti hanno fatto è, come dire, molto utile. Ma da qui a dire che con questa operazione il cognitivismo, le scienze cognitive hanno riscattato la nozione di natura umana, come dire, apparentemente fatta fuori dal perfido relativismo, mi pare che ce ne corra un po', e lui stesso è obbligato a riconoscerlo, lo stesso cognitivista lo riconosce. Dunque, il concetto di essere umano che se ne può far derivare non è ancora la ricomposizione dell'uomo culturale e dell'uomo biologico. L'oggetto della scienza cognitiva non è un oggetto biologico. E i modi della sua realizzazione da parte dell'hardware cerebrale umano sono tuttora materia di speculazione più che di conoscenza scientifica. I cognitivisti farebbero bene a essere conseguenti e a riconoscere una volta per tutte che questa metafora dell'hardware cerebrale umano è lei stessa limitativa e non funziona, perché possiamo anche chiamare il cervello una macchina, può anche essere che sia definibile come una macchina, ma è una macchina unica, non sente, ha un funzionamento più complesso, non solo sul piano quantitativo, ma sul piano qualitativo rispetto a una qualunque macchina di Turing algoritmica. Qualitativamente il cervello, non la mente, non il sottosistema algoritmizzabile, cioè il cervello in quanto macchina biologica o organismo biologico o prodotto di una evoluzione naturale durata alcuni milioni di anni, il cervello in quanto tale non è esauribile e descrivibile con strumenti algoritmici, con gli strumenti quindi della scienza cognitiva. E quindi questo quantomeno, mi pare, quantomeno continua a lasciare impregiudicate le cose, almeno come erano prima. Quindi questa pretesa ritorno, riscossa a cavallo e con la lancia in resta della natura umana disazionata dal fascino relativista, eccetera, mi pare che sia un po' dubbiosa, insomma, e che gli stessi si debbano riconoscere che è un po' dubbioso. Sono troppo cattivo, me ne rendo conto, cercherò di essere più buono nella mia prossima reincarnazione. Dunque, il concetto di essere umano, che se ne può arrivare, non è ancora la ricomposizione dell'uomo culturale e dell'uomo biologico. L'oggetto della scienza cognitiva non è un oggetto biologico, i modi della sua realizzazione da parte dell'hardware cerebrale umano sono tuttora materia di speculazione più che di conoscenza scientifica. Perfetto, bravo, lo dici tu. Anzi, come abbiamo visto, non sono pochi a pensare che lo studio del cervello obbligherà a una revisione radicale, e penso bene, dei concetti e dei modelli della scienza cognitiva. E innanzitutto all'abbandono, e non sarà mai troppo presto, dico io, della analogia tra mente e computer, che ha svolto nella scienza cognitiva un ruolo eruditivo così fondamentale. E questa forse la principale sfida teorica dei prossimi anni. Una vera ricomposizione dell'uomo biologico e uomo culturale sarà possibile solo se i processi cognitivi potranno essere compresi a partire dal funzionamento del cervello. Questo penso che sia giusto, certo, questa è una giusta aspirazione. Il mio modesto parere, ma supportato da molta credenza, è che purtroppo lo sviluppo delle scienze cognitive negli anni 60 negli anni tra 70 e 80 abbia cacciato il cervello in un piccolo cieco, perché ha puntato tutto su questa algoritmizzazione, su questa identificazione del cervello con una macchina di Turing, con una macchina algoritmica che solo a quel punto si potrà fondatamente parlare di comprensione scientifica della natura umana. Finché questa sfida non sarà stata vinta, sarà legittimo pensare con Foucault e i suoi eredi che l'uomo di cui parla la scienza cognitiva non sia che uno dei tanti personaggi di romanzo inventati dalla nostra cultura. Con questo elogio di Foucault fatto da un cognitivista, ci fermiamo un attimo perché siamo stanchini, facciamoci un minuto di pausa che oggi ve li do e ci rivediamo tra 5 minuti qua. Non ho capito una cosa. Dimmi.